Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. O forse era un vinaccio pessimo ed ero solamente inebriato dal momento. Un po' come quando sorseggi uno di quei vini resinati in un porticciolo greco e lo trovi grandioso. Poi ne apri una boccia a casa e sembra Vernel. Mi chiamo Andrea Bonesi, ho 37 anni, sono di Mantova. Nella vita faccio il tecnico commerciale nel campo degli imballaggi in legno. Come grande passione, secondo lavoro, faccio il sommelier. Profumo di mughetto, delicato, retrogusto di coriandolo, una goccia di lime e bagnoschiuma. Il solito grande clima di lusso e buon vino qui al Vinitaly. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, il programma E voi siete qui dallo splendido stand di Radio 24. Ospiti, lo chiedo a Davide Ciocia che è appena entrato nello stand, ospiti dell'Abruzzo, giusto? Ospiti dell'Abruzzo, non ho capito bene perché siamo ospiti dell'Abruzzo, ma anche chi se ne frega, l'importante è che, siamo qui. C'è gente, si vede di tutto in giro per Vinitaly, credo un'edizione mai come quest'anno. Cioè, che si dice sempre così, però entrare qui dentro è un delirio, c'è un casino di gente e soprattutto vedi questi uomini, insomma uomini distinti, in giacca e cravatta che abitualmente vedresti in giro in treno, negli autogrill, che cominciano a tazzare verso le 9 del mattino e arrivate a quest'ora sono delle condizioni che non so come riescono a reggersi ancora in piedi. 349-238-6666 è il numero per scrivere sempre in diretta qui a voi siete qui. Oggi si parla di vino, vabbè, è inutile dirlo, chiaramente siamo al Vinitaly e con Andrea, con la storia di Andrea, raccontiamo di un pezzo del vino. Qui ovviamente sono rappresentate tutte le regioni italiane, pare che ogni regione abbia un vino magnifico, una terra che fa un vino splendido e probabilmente è così. Ecco, c'è da registrare anche lo sconforto dei personaggi che ogni tanto entrano allo stand credendo e sperando che io sia Davide Paolini, dandomi roba da mangiare o da bere, poi realizzano che io non parlo di cibo e se ne vanno. Però qualcuno ha lasciato, è entrato un ragazzo prima, lasciando queste cose che si chiamano mostarelli sapori di casa Tiberio, dicendo: io non sono un produttore ma ho fatto la tesi di laurea su questa cosa, che sono tipo dei biscotti ripieni. Non so, ci stava, a me Paolino ci stava simpatico perché aveva la faccia di uno che era capitato qui per caso. 349-238-6666, di nuovo da Vinitaly, parliamo di vino, ma soprattutto parliamo di un pezzo di vino con la storia di Davide che si svolge in Sardegna e parla di vino e di formaggio. Sbarcai a Olbia di buon mattino e dovendo raggiungere Iglesias tagliai l'isola in obliquo. Dopo un po' mi trovai ad attraversare la Barbagia e un gorgoglio allo stomaco mi fece ricordare che nella fretta dello sbarco non avevo ancora fatto colazione. Nonostante la cattiva fama della zona, decisi di fermarmi in un paesino qualunque e, come spesso accade quando si hanno stupidi pregiudizi, tutti i banditi che incontrai si dimostrarono disponibili e gentili. Un turista da quelle parti era una rarità e la moto fece come al solito la sua parte, suscitando interesse e curiosità tra i presenti ed aiutandomi a superare la mia abituale riservatezza. In un piccolo negozio di alimentari mi offrirono addirittura pane e pecorino come benvenuto. Accettai volentieri e mi chiesi se, a parti inverse, la stessa cosa sarebbe avvenuta nella civile Mantova, dove vivevo. Ero in Sardegna in vacanza perché ho molti parenti in quelle zone, perché mia mamma è di Iglesias, e quindi sono andato a trovarli, andando a fare un giro in moto, e scendendo dalla nave mi sono accorto appunto che avevo fame, mi sono fermato in questo paesino della Barbagia e mi hanno offerto in questo piccolo negozio un benvenuto, diciamo, con del pecorino e del pane. Chiaramente io ho pensato anche che dalle mie parti una cosa del genere non sarebbe successo, insomma, perché l'ospitalità è molto forte dei sardi. Sarà stata la gran fame, ma trovai il formaggio squisito. Così chiesi informazioni sul produttore, che mi dissero essere un giovane pastore locale di nome Paolo, Pauleddu per tutti. E se avessi avuto un po' di pazienza, avrei forse potuto incontrarlo a breve, in quanto era sceso il giorno prima per fare provviste e sarebbe risalito di lì a poco. Il tempo di due bocconi e lo vidi arrivare curvo col suo grosso zaino. Gli feci complimenti per il frutto del suo lavoro, chiedendogli se fosse possibile acquistare una forma. Lui mi disse che erano tutte nella baita e, se me la fossi sentita di seguirlo, me l'avrebbe venduta volentieri. Non avevo fretta e l'occasione mi sembrò irripetibile. Così accettai. Ci incamminammo e Paoleddu mi raccontò quelle inospitali montagne di cui conosceva ogni anfratto. Poi, a un certo punto, notai alcune pietre poste circolarmente come a voler delimitare un focolare. Gli chiesi se gli autori fossero i turisti in vena di picnic e lui mi guardò come farebbe un romano di fronte a un turista incapace di riconoscere il Colosseo. Mi spiegò che erano opera dei pastori come lui, che per sentirsi meno soli durante i lunghi mesi trascorsi lontani dalle loro famiglie, nelle limpide notti estive accendevano piccoli fuochi, in modo da salutare i colleghi che si trovavano nelle montagne vicine. Mi sentii a disagio come un papa boy ad un rave party e ripresi la parola solo quando arrivammo nei pressi della piccola baita, dove ci venne incontro il suo magnifico pastore abruzzese rimasto a guardia del gregge, che non mi degnò nemmeno di un'annusata. La gioia del cane era irrefrenabile e contemplai come la natura lo aveva plasmato perfettamente per il suo ruolo. Anche le pecore salutarono l'arrivo del boss con un belare assordante che squarciò il silenzio assoluto di quel luogo ed io mi emozionai per il privilegio di viverlo in prima persona, unito alla consapevolezza che mestieri così duri sarebbero potuti presto scomparire. Il padrone di casa mi offrì il suo vino, un robusto Cannonau, che, come inchiostro, tinse il bicchiere. Mentre lo assaporammo con un pezzo del suo magnifico formaggio, mi venne spontaneo il paragone con le degustazioni a cui partecipavo abitualmente insieme ad amici sommelier come me. Sono sommelier dal 2006, mi sono avvicinato al mondo del vino per una grande passione che ho per la gastronomia in generale. Mi piace per caratteristiche personali, sono molto curioso, quindi voglio approfondire. Ho iniziato a studiare, ho visto che è un mondo infinito. Io lo adoro perché il mondo del vino mi piace tantissimo, perché è un ambiente meraviglioso e sono fiero di essere italiano ogni volta che bevo un buon bicchiere di vino fatto nel nostro paese. Là tutto era curatissimo, assenza di odori fuorvianti, sottili calici di cristallo, temperature perfette. Eppure, anche in assenza di tutto ciò, mi resi conto che la forza di quel vino casereccio era perfetta per stemperare le potenti sensazioni espresse da quel cacio profumato. Tutto si sposava in un mix ideale, dove territorio, storia e tradizione si fondevano magicamente. O forse era un vinaccio pessimo ed ero solamente inebriato dal momento. Un po' come quando sorseggi uno di quei vini resinati in un porticciolo greco, lo trovi grandioso, poi ne apri una casa e sembra Vernelle. She says wake up, it's no use pretending, I'll keep stealing, breathing her. Birds are leaving over autumn's ending. One of us will die inside these arms. Eyes wide open, ashes round the yard. Io provo molta invidia per Andrea. E la provo perché io non avrei mai potuto vivere la sua stessa esperienza fino in fondo. E non l'avrei potuto fare perché davanti alla proposta del pastore sardo di condividere un bicchiere del suo Cannonau, io avrei dovuto rifiutare. Sin da quando ero bambino, mio papà iniziò a preoccuparsi della mia astemia. Quando facevo tutte quelle facce strane, bevendo uno spumantino nelle occasioni importanti, lui mi guardava preoccupato e mi diceva: ma tu come farai quando i tuoi amici ti chiederanno di uscire per bere una birra? E per qualche anno io ho temuto che non avrei avuto amici, che mi sarei trovato isolato e solo con tutta la mia inutile lucidità. Poi crescendo ho scoperto che in realtà non era così necessario apprezzare l'alcol per avere una compagnia e quindi quel problema lo superai. L'astemia però mi ha comunque condannato a non conoscere una parte della tavola, della cultura culinaria e anche del vivere sociale. Ho capito con il tempo che non condividere un bicchiere di vino attorno a un tavolo mi avrebbe impedito di incontrare persone, di conoscerle e di capire meglio chi avevo davanti. E non si tratta solo del vecchio adagio che recita in vino veritas, ma del fatto che condividere qualcosa di buono in due avvicina quelle persone, le rende quasi fratelli, soprattutto quando ci si trova davanti a qualcosa di così bello o così buono che altera anche solo lievemente lo stato di coscienza. Io mi sono trovato un sacco di volte a cena o a pranzo con qualcuno con cui si creava magari un ottimo rapporto, una bella atmosfera, e al momento in cui c'era da fare un brindisi o anche solo da ordinare un vino, io dovevo fare un passo indietro. Ora, a 37 anni, quasi 38, sto cominciando a provarci. Sto iniziando ad assaggiarlo e a farmelo piacere. E non solo perché mi perdo una parte buona della tavola, ma perché è chiaro che la bontà, quella bontà che assomiglia alla bellezza, non va vissuta da soli, ma va condivisa. Tutte le cose belle vanno vissute con qualcuno che le viva insieme a te, anche se si tratta di uno sconosciuto che hai incontrato nel cuore della Barbagia. Ecco perché io sento di provare una certa invidia per Andrea quando incontra il pastore che gli offre del vino con il pecorino, così come invidio tutti quelli che quel vino se lo sarebbero bevuto. That cold sunny afternoon, I let you in on a secret. It was the very last secret left in Camden Town. Perché il racconto di Andrea non è arrivato l'altro ieri per Vinitaly, era arrivato con grandissimo anticipo. Tiziano l'avevamo letto forse d'estate e l'abbiamo tenuto lì, come dire, questo se andiamo a Vinitaly lo tiriamo fuori. E visto che non siamo, sembriamo scemi, effettivamente un po' sì, però non lo siamo, l'abbiamo tirato fuori adesso. E abbiamo fatto anche scopa, perché abbiamo detto andiamo a Vinitaly, raccontiamo il racconto di Andrea sul vino e visto che Andrea è qui lo chiamiamo in studio. Ciao Andrea, buongiorno. Ciao Matteo, ciao a tutti i radioascoltatori. Ma sì, ma vale lo stesso. Credo sia la prima volta in cui c'è un ospite, a parte le puntate particolari con gli ospiti, ricordo Giovanni Soldini, Alex Bellini erano capitati in studio, la prima volta in cui abbiamo un ascoltatore dal vivo presente qui. Sei in tenuta da sommelier? Diciamo che non sono in tenuta perfetta da sommelier, perché ci sarebbe un grembiule, alcune cose particolari, uno Spencer, in questo caso lo stand... Uno, scusami? Uno Spencer, una giacca un po' particolare che si usava negli anni Ottanta, noi ce l'abbiamo ancora. Una giacca da sommelier. Particolare molto corta, sì, con uno stemmino, e noi siamo obbligati a usare quella quando facciamo dei servizi particolari. In questo caso lo stand ci chiama e vuole un abbigliamento, diciamo, un po' più casual per una scelta sua, quindi abbiamo un abbigliamento normale. Sì. Allora, vi ricordo che noi siamo al padiglione 11 e siamo ospiti dell'Abruzzo. Tu però sei al padiglione, mi hai detto? Padiglione 7. 7. Sono per un'azienda che commercia del vino di tutta Italia. Sì. Perché Andrea, facciamo un attimo, tu hai due lavori praticamente. Sì. Allora, tu sei... Io sono un tecnico che mi occupo di commerciale, un rappresentante, per dirlo in modo specifico. Di che cosa esattamente? Vendo imballaggi in legno. Ok, quindi proprio... C'entra niente con il vino. Roba che... E poi invece c'è la passione c'è per la il passione vino. C'è la passione del vino, che la coltivo da molti anni. Ho iniziato a fare dei corsi di degustazione anni fa, poi piano piano sono arrivato a quello da sommelier, che è quello più, diciamo, articolato e complesso, e ho preso il diploma. È un percorso un po' lungo. Quanto dura il corso? Beh, circa un paio d'anni. Diciamo che, come tutti i maschietti, ho iniziato per fare un po' colpo sulle ragazze, diciamo, la scelta è questa. Poi quando ho capito che ci voleva ben altro per impressionarle, ormai ho quasi finito il corso, quindi ho detto ok, andiamo. Quindi il vino non funziona con le ragazze? Ma sì, un po' per intortarle, sì. O la colazione di farfalle o il vino, sai, sono quelle lì, insomma. Guarda, più tardi leggo una storia che ci ha mandato proprio in occasione invece di Vinitaly. L'altro giorno abbiamo chiesto, mandateci storie. E c'è una storia di Antonella che leggo più tardi, che è di origine argentina e che è stata conquistata dal suo attuale fidanzato, certo, grazie a delle cene in cui lui diceva tu porta il vino, io ti suggerisco come berlo, eccetera eccetera. Stiamo un attimo sul sommelier, sulla figura del sommelier. Sì. È una categoria professionale? C'è un albo? C'è un'iscrizione? Sì, devi iscriverti, chiaramente quando ti prendi un diploma puoi iscriverti a un gruppo chiamato gruppo servizio, in cui operi effettivamente. Noi operiamo in manifestazioni, in fiere, dovunque ci chiamano, in matrimoni, occasione di cene di gala, cioè, ecco, tanti questa esempi. Cosa mi sfugge, nel senso che non ho moltissima dimestichezza. Cioè, chi ha bisogno di un sommelier? Allora, per dirti, qui siamo in uno stand che vendono del vino, chiaramente io sono in una postazione di champagne, voglio una persona che conosca il vino perché lo possa servire alla temperatura corretta, con tutti i crismi, che sappia spiegare all'interlocutore che hai davanti tutte le caratteristiche. Per qual vinita li puoi incontrare da semplice appassionato che magari ha bevuto 30 vini, quindi un po' vinazzato, come all'enologo o lo scrittore, insomma, la persona molto attenta. Perché, togli una curiosità, è vero che qui la gente comincia a bere alle 9 del mattino? Diciamo assaggiare. Diciamo che le brigate degli alpini si vedevano gli anni scorsi, diciamo. Adesso hanno spostato un po' dal weekend all'inizio settimana, quindi dal lunedì e mercoledì, quindi giustamente perché è più per gli addetti ai lavori. Se ci pensi, un ristoratore, un enotecario magari è chiuso il lunedì, ecco, non la domenica, per cui questa fiera in fondo è fatta per loro. Chiaramente oggi di vino si parla a 360 gradi, quindi piace molto. Ci possono chiamare a fare qualsiasi cosa, a presentare vini, ci chiamano a volte in un matrimonio, noi ci occupiamo solo della parte vino, quindi serviamo il vino direttamente, okay, a una fiera di settore, non so, una fiera dell'Ambrusco, io sono mantovano, quindi spesso ci chiamano in queste manifestazioni. Abbiamo fatto delle cene di gala, ho lavorato, non so, la settimana della moda, per dirti, in cui... E tu come combini col tuo lavoro? Prendi delle ferie, riesci a mischiare le cose? E scusami, e i sommelier sono più o meno, gran parte sono come te, che hanno due lavori ed è... C'è anche chi lo fa professionalmente, chi lavora in ristoranti, chi lavora in enoteche, e molti come me invece lo fanno come secondo lavoro. Per esempio, di solito queste cene di gala sono di sera, quindi si riesce a farle tranquillamente alle 8 in poi. In questo caso mi sono preso delle ferie dal mio lavoro abituale. Sei qui. Esatto. Torniamo invece un attimo al racconto. Certo. Tu mi dicevi prima fuori onda che è del 2000 questa storia. Sì, il 2000. Sì. Quindi tu quanti anni hai adesso? Io ho 70, sono del 75, secondo me siamo coetanei, quindi 37 suonati. Diciamo. Quindi ne avevi 25. Tu sei originario della Sardegna? No, io sono mantovano, sono nato a Manto, papà mantovano, mamma sarda, di Iglesias, che è sud-ovest della Sardegna. Sulcis Iglesiente. Esatto. Zona di miniere, carbone. Esatto, però anche molto bella, perché molti non la conoscono. Se ne parlo purtroppo solo per i problemi di lavoro oggi. È vero, però è una zona fantastica. Selvaggia. Chi ama Sardegna selvaggia è bellissima. Insomma, tu stai attraversando la Sardegna perché da nord-est devi andare da Olbia, devo andare a Iglesias, che è dalla parte opposta. Attraverso il traghetto arrivo un po' prima, con i parenti sono d'accordo che arrivo la sera, quindi non mi aspetta nessuno con urgenza. Scendo, non faccio colazione perché insomma, sai, con lo sbarco del traghetto così con la moto è un po' al solito casino. Attraverso la Barbagia, mi fermo in un paesino che ho fame, mi fermo a far benzina così. Vedendo la moto, ovviamente sono un po' attira sempre curiosità. Che moto era? Allora era una Kawasaki Ninja, una 600 sportiva. Moto da strada, quindi. Moto sportiva, sì, sì. Però quindi arriva la gente, cosa fai qui? Questa, perché non è zona turistica quella, no, quindi. Quella lì era un paesino, non mi ricordo neanche il paesino esattamente. Comunque era dalle piedi del Gennargentu, insomma, zona di la Barbagia. Sì, cioè, la Barbagia se ne parla sempre un po'. Io conosco i sardi, quindi so che non è così, però sai, i cartelli stradali tutti impallinati fanno sempre un po' una scelta, sono tutti cacciatori, poi alla fine non è che ci sia niente di che. E ci vedo questo negozietto di alimentari, e appena mi vede mi saluta, capisce che sono ovviamente un estraneo, e mi offre un assaggio di pane pecorino, lo gradisce, io ho una fame di quelle giuste, quindi lo gradisco alla grande. Gli chiedo, ma non è che se ne può comprare un po', tanto che devo fare ancora il pranzo, così. Fa, sì, se vuoi, c'è il produttore. C'è il pastore. Ma arriva il pastore, che è un ragazzo giovane. Ha avuto 30 anni, un po' più... E tu lo segui sulla... Lui mi dice, allora, se aspetti arriva, due secondi, finisco il boccone, arriva questo ragazzo, Pauleddu, che poi è Paolo, chiaramente. E niente, mi dice, guarda, se vuoi te lo vendo, però devi seguirmi sulla montagna, sulla mia la baita, diciamo, dove c'ho le pecore. Era distante? Avrò camminato quasi un'oretta. Fatto un alpeggio quasi. Un alpeggio, sì, loro proprio si trasferiscono su queste montagne, chiaro, che sì, non sono altissime, il Gennargentu non è altissimo, però stanno via anche delle settimane, quindi tornano magari, mi diceva che scendevano a fare le provviste. E lì, diciamo, Vaggia, altro pecorino, ti dà da bere questo vino, e la cosa che mi stupiva, che dici, è che noi insomma, siamo abituati, no, ad avere delle condizioni perfette, certo, per assaggiare il vino, temperatura, niente colore, odore, non ci sono odori fuorvianti. Quello invece perfetti, chiaramente è un po', sei in un alpeggio, ci sono le pecore, cani, quindi hanno un bicchierone di vetro di quelli che neanche se cade da una montagna si rompe, quindi l'opposto di quello che serviva. Eppure l'abbinamento era perfetto. Sei inebriato anche dal momento, insomma. Andrea, dobbiamo chiudere, dare la borsa e lasciarti soprattutto tornare al tuo stand. Certo. Che vino consiglieresti di bere oggi? Non so in base a cosa, non sono astemio, però in base alla temperatura, in base alla giornata. Allora, visto che parliamo di Sardegna, un vino che amo moltissimo, sempre stando in questa zona, è il Carignano del Sulcis. Un vino rosso molto particolare, molto speziato. Molto corposo. È corposo. Dico cose che non so, ovviamente. No, il vino corposo, però. Sai come funziona? Più la spari grossa, basta dire dei fiori che non conosce nessuno, quindi funziona un po' così. Andrea, ti ringrazio per essere venuto, mille, per aver rubato del tempo al tuo secondo lavoro. Puoi dire tu che c'è la borsa? Adesso Matteo trasmette, passa la linea alla borsa. E io sono maledettamente qui perché sono qui mica come gli altri. La borsa è poi voi siete qui, grazie Andrea. Voi siete qui. È un po' diverso Andrea nella foto che ci ha mandato dalla sua presenza qui un attimo fa, dal vivo nello stand di Radio 24 qui a Vinitaly. Sembra un po' più grasso in questa foto, ma d'altra parte no, è che sono proprio passati 13 anni in realtà, perché era il 2000, anche se non credo che questa foto sia di qualsiasi... Credevo che questa foto fosse la foto che lui ci ha scattato in Sardegna, invece non so quand'è, ma è in mezzo al deserto, direi. è vestito da motociclista ed è in mezzo a una specie di lago lago asciugato con dei grani di sale. C'è una barca con una bandiera che non si capisce però che bandiera sia, è rossa, sembrerebbe la bandiera della Svizzera, però non immagino. Vabbè, comunque è vestito da motociclista in un lago salato asciugato ed è sotto una piccola capannuccia fatta con delle travi di legno. Probabilmente, come giustamente suggerisce Tiziano, è in Sud America. Vino. Sostantivo maschile. Prodotto della fermentazione alcolica di mosti ricavati da uve fresche o leggermente appassite, con o senza la presenza di vinacce. Spirito di vino, nome dato dagli alchimisti all'alcol etilico. Estensivo, nome di varie bevande alcoliche ottenute per fermentazione. Etimo, dal latino, vinum. Quante cose ci insegna Alessandra De Luca? Anche qui a Vinitaly, dallo stand di Radio 24. Io volevo leggere un attimo questa cosa che c'è scritta lì, perché in questo stand è l'Abruzzo, che ha come claim nati per piacere. Cioè, sono delle. Avete presente quelle scritte fatte. Che ogni parola c'ha un font diverso. Un font, giusto? C'è un font diverso. Come il mare che accarezza la terra e subito si ritrae. Come il giorno. Non so perché, ma tutte le robe sul vino io le leggerei così. Come il mare che accarezza la terra e subito si ritrae. Come giorno. Che, giusto? Che sfiora, sembra anche una roba di un oculista, che sfiora la notte un effimero orizzonte rosato come Bacco e Venere che incrociano. Poi niente, passa avanti un signore col volto rubizzo e quindi non ci vedo più cosa c'è scritto sotto. Siamo nello studio di Radio 24 da Vinitaly, si parla quindi di vino e avevamo chiesto delle storie da leggere oggi qui, oltre insomma da accoppiare alla storia di Andrea. Ce ne sono arrivate diverse, ne abbiamo scelte due, che sono in particolar modo storie di donne. Una parla di vino e amore, l'altra invece parla di vino e lavoro, direi, di vino e vita, anche se in parte di infanzia. C'è sempre un po' questa commistione in realtà in tutte le storie che sono arrivate e che parlano del vino. È come se il vino fosse una parte molto importante della vita delle persone che, vabbè, qui ovviamente perché quelle persone a Vinitaly ci campano col vino o ci hanno a che fare e quindi fa estremamente parte della loro vita. Però anche in queste piccole storie in cui il vino è solo tangenziale alla vita, però rientra molto, proprio come la storia di Alessandra, o per meglio dire Alejandra, che ci scrive della sua storia d'amore, nata in età avanzata, 40 e più, lei dice. Lei è di origine italo-argentina, cioè il nonno era friulano, è emigrato in Argentina, tipica storia. Lei è ritornata in Italia, però ha un figlio a Buenos Aires, ne ha uno qui a Verona e soprattutto qualche tempo fa, grazie anche al vino, ha incontrato il suo nuovo amore. Quando ho conosciuto Carlo, dopo un po' di tempo di frequentarci, mi racconta che come secondo lavoro, proprio per passione, fa il giornalista enogastronomico. Io non conoscevo assolutamente il suo ambiente, tutto mi era nuovo e affascinante. Una storia d'amore sfociata alla tenera età di 40 e più anni. Due mondi da mescolarsi insieme come era destino, o almeno per me. Ci frequentavamo senza coinvolgere i figli, regola d'oro per una psicologa. Tutto graduale e nel massimo rispetto della famiglia, che dovevamo abituare al nostro nuovo status di famiglia separata. Carlo mi ha conquistata con delle cenette e dei vini che io nel mio piccolo non avrei mai immaginato che esistessero. Il venerdì, la serata che entrambi avevamo libera, per almeno un anno mi aspettava a casa sua, sul lago di Garda, per una delle sue romantiche e squisite cene. La sua passione per la bellezza della tavola, per i profumi, per i colori, cominciano ad incuriosirmi, oltre che a interessarmi. E piano piano comincio ad innamorarmi di lui e dei meravigliosi sapori che mi faceva assaggiare. Le mie origini friulane lentamente si sono fatte sentire e in breve diventai una sua allieva, pupilla e morosa. Un giorno lui mi lancia una sfida. Se vuoi portare il vino, mi dice, ti do due o tre criteri e tu scegli. E così feci. Portavo il vino per le nostre fantastiche cene e per un anno o di più sono stata regolarmente bocciata. Lui assaggiava, mi spiegava e lasciava la bottiglia da parte. Lo confesso, ero molto triste, a volte scoraggiata, ma ora lo ringrazio. Mi ha insegnato la sinfonia dei sapori, la qualità al di là del prezzo, l'onestà e la superbia del vino. ripercorrerai volentieri un'altra volta quell'anno pieno di scoperte e di sapori nuovi. Ogni venerdì una tenera bocciatura, ma adesso sento che ho imparato ad assaporare la qualità al di là del mercato e delle mode. E soprattutto vado insieme a lui agli assaggi di vini che ci raccontano la storia dei popoli e che svelano l'anima delle persone che vivono su un determinato territorio. Sempre a Vinitaly, avete sentito la storia di Alejandra che dall'Argentina parte, arriva in Italia, si innamora e c'entra la storia. È divertente la storia della bocciatura, che io mi immagino sta poveraccia che arrivava tutti i venerdì sera con questa bottiglia di vino e questa. No, questo non va bene, sarà che dall'alto o dal basso della mia astemia probabilmente mi sarei asciugato dopo due venerdì. Lei invece ha avuto la costanza, è rimasta lì. Qui intanto continuano a vedersi persone, ci sono questi piatti di salame abbandonati in giro negli stand, robe dolci, panini gonfi d'olio e di pepe, poi c'è questo odore in realtà nell'aria, gente che mangia, beve, c'è questo odore nell'aria, che avete presente l'odore che c'è nei negozi di mobili nuovi? Forse perché gli stand sono allestiti ad hoc, no? Li pigli, li smonti. Non so se è resina, colla o la moquette, probabilmente. O giusto, come indica Davide Ciocia, lo splendido cartellone di Radio 24, politica, internet, scienza, benessere e salute. Essere e benessere, di Nicoletta Carbone. Ogni tanto lo butto dentro così. Non c'è Nicoletta Carbone in Italy. No? Perché? Avrebbe potuto dire una roba tipo... Il vino fa buon sangue. Scusa Nicoletta, giusto, giuro che non ne parlo più. C'è un'altra storia che voglio leggervi, però dopo la storia di Alejandra è un'altra storia, la storia di Antonella. Antonella mi scrive così: quando ho sentito il tuo annuncio su Vinitaly in cui chiedevi delle storie sul vino, io ero nella vigna che potavo, quindi non potevamo non leggere questa storia. E quando ho sentito che cercavi storie da raccontare al Vinitaly, ho subito pensato di scriverti per raccontarti una delle mie. Verrò a Vinitaly martedì e mercoledì, posso venirvi a trovare? Guarda, puoi venire, noi non ci saremo, però la radio sta ancora, giusto, fino martedì e mercoledì. Quindi passa, siamo al padiglione 11, ospiti dell'Abruzzo, insomma, ci ritrovi. La storia di Antonella, appunto, è una storia diversa, non ha a che fare con l'amore, ma racconta di come in pratica da bambina faceva una vita, è passato del tempo, ha fatto un lavoro, ha fatto una vita e poi è tornata là. Mi sentivo una bambina fortunata. Vivevo in città, cemento, macchine ovunque, gli orari per scendere in cortile, ma io avevo di più di tutti gli altri. Avevo una casa in collina. I miei fine settimana insieme ai nonni erano semplicemente favolosi. Il nonno Carletto mi insegnava il nome delle erbe e di tutte le piante. Davamo da mangiare agli animali da cortile alzandoci prestissimo alla mattina e facevamo lunghe passeggiate nelle vigne. Ed è lì, credo adesso a distanza di tanti anni, che è nata la mia malattia. Il massimo per me era poter aiutare in qualche modo nel lavoro, ma in quelle occasioni di lavoro tipicamente maschile era difficile poter usufruire del lavoro di una bambina di 5-6 anni. Se non... e questo il mio magico nonno lo ha fatto più di una volta, per mettermi a guardare se il mosto arrivava nella botte, mi diceva. Compito che eseguivo con enorme attenzione e serietà. E ogni tanto arrivava un urlo: Antonella, arriva il vino nella botte? E io, lusingata e felice, urlavo: sì! Ma ho avuto l'occasione di poter essere ancora più coinvolta, perché poi il vino andava cavato e travasato più e più volte, fino al momento dell'imbottigliamento. Quel lavoro era strettamente familiare e lo facevamo tra di noi. Ad ognuno un compito preciso. Chi manovrava la pompa, chi portava le bottiglie, chi le tappava e chi le metteva a posto. E col passare del tempo è arrivato anche il mio turno alla riempitrice. Il lavoro più ambito, ma anche il più impegnativo. Si infilava la bottiglia nel becco, e di becchi ce n'erano tre, e una volta riempita si toglieva e sostituiva con una vuota. Bisognava essere veloci e attenti per non far uscire il vino e per tenere sempre lo stesso ritmo. Quel giorno mi impegnai allo spasimo. Mi faceva male la schiena perché la macchinetta era bassa, niente a che vedere con la tecnologia odierna. E accadeva che talvolta si bloccasse perché aspirando aria poteva perdere l'effetto vuoto e non riempiva più. Così, per non perdere il ritmo ed essere all'altezza del compito affidatomi, riattivavo il beccuccio aspirandolo con la bocca. La mia prima ubriacatura. Ovviamente nessuno si è reso conto della cosa, tanto si era tutti indaffarati. Ogni tanto mia mamma mi indirizzava un canonico: tutto bene? Al quale io rispondevo di sì, molto compresa nel mio ruolo. Finito il lavoro, ero in uno stato di ebbrezza non solo fisica, ma soprattutto emotiva. Ero riuscita a portare a termine il mio compito. Mio nonno era fiero di me ed erano tutti contenti, ma io non ce la facevo più. Così ho raggiunto, fuori dalla cantina, l'orto della nonna, dove c'era un magnifico campetto di fragole. Era una bella primavera, sole tiepido e frutti succosi e profumati, maturi e pronti. E così ho concluso quello splendido pomeriggio mangiando fragole e smaltendo la mia ciucca sdraiata sul prato tiepido. Era la storia di Antonella che fa, insomma, fa quello che moltissime persone vorrebbero fare, una sorta di sogno di moltissime persone. Adesso, dopo aver fatto mille cose nella mia vita, conclude la sua mail, e aver studiato tutt'altro, con tanto orgoglio faccio l'agricoltore. Dobbiamo chiudere, manca pochissimo. Io, visto che l'anno scorso avevo assaggiato, non so se vi ricordate, avevo assaggiato dei vini ed ero uscito quasi steso, non posso andarmene se non provo ad avvinarmi la bocca, come diceva Davide Ciocia prima, senza avere la sputacchiera di fianco. Io non le ho viste queste sputacchiere, però, che sono... Ah, eccola là. Ah, è vero. Sapete cos'è la sputacchiera? È una roba in cui si sputa il vino dopo essersi fatti la bocca di vino, dopo essersi avvinati la bocca. Insomma, io mi sono fatto portare un goccio di questo Montepulciano d'Abruzzo, vitigno autoctono, come mi diceva Davide Ciocia. È un vino rosso che tinge il bicchiere come l'inchiostro, ha un sapore fruttato. Perché non è fruttato per niente, è barricato il Montepulciano, però ha un sapore forte, Tiziano mi fa di sì, niente, gente che qui probabilmente dedica la vita al vino e arriva il primo pirla a stemmio, che però ha un buon sapore. Questo è un vino da tavola. Chiaramente è un vino rosso da tavola, è un Montepulciano d'Abruzzo, ricordiamo che siamo ospiti dell'Abruzzo. Vado ad assaggiarlo, poi abbassami la base, Paolino, grazie. Diciamo che ha un gusto estremamente potente, è resistente, no? Giusto? Grazie al Montepulciano d'Abruzzo, grazie a tutti quelli che hanno fatto possibile anche questa puntata. Ve lo dico, qui nello stand, e non ero da solo, c'erano di fianco a me Tiziano Bonini, Paolino Corleone e soprattutto Davide Cioccia, che ha un saldatore in mano, non so a cosa serva. Grazie alle ostesi fuori, grazie a tutti quelli che passano e guardano come se fosse un negozio qualunque lo stand della radio. La storia di oggi qui dal Vinitaly era la storia di Andrea, e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Alvise Crovato, viva Milano. La storia di domani è la mia e parla dell'incontro con uno stambecco bianco. Questa è la mia storia e io sono qui.